Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Radiobook. Oggi parliamo di stalking con l'editoriale di Tamara Marcelli, poi parleremo di violenza con l'editoriale di Elena Genero Santoro e alla fine leggeremo, come di consueto, l'estratto di un libro. Iniziamo con l'editoriale di Tamara. Il 14 agosto 2013 il governo italiano ha prodotto il decreto legge 93/2013, convertito in legge dello Stato numero 119/2013 il 15 ottobre successivo. In quell'occasione il Presidente della Repubblica ritenne che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo in determinati casi misure di prevenzione finalizzate all'anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica. Il 27 giugno 2013 l'Italia, con la legge numero 77/2013, aveva ratificato la famosa Convenzione di Istanbul, Convenzione sulla prevenzione della violenza contro le donne e la lotta contro la violenza domestica, sottoscritta dai membri del Consiglio d'Europa il 15 maggio 2001. Già nel 2009 il governo però aveva posto le basi per una decisiva modifica del codice penale. Possiamo individuare il primo passo importante verso la reale considerazione del problema femminicidio da parte del legislatore nel decreto legge 11/2009, denominato decreto sicurezza, del 23 febbraio 2009, che è stato convertito il 23 aprile nella legge 38/2009. Erano state inserite alcune importanti novità degne di nota, tra cui l'introduzione di una specifica previsione normativa, reato di atti persecutori, comunemente detto stalking. Inoltre veniva introdotta l'obbligatorietà custodia cautelare in carcere per coloro che si rendono responsabili dei delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, prostituzione minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e violenza sessuale di gruppo. Era stato introdotto anche l'arresto obbligatorio in flagranza per reati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, con rito direttissimo. Oltre a questo c'era il gratuito patrocinio a spese dello Stato per le vittime di violenza sessuale. Venne così introdotto nel codice penale l'articolo 612 bis, il reato di atti persecutori, il cosiddetto stalking, per la cui sussistenza si richiede la ripetitività della condotta. In particolare, provocando un perdurante stato di ansia o paura nella vittima, ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona alla medesima legata da relazione affettiva, ovvero da alterare le proprie abitudini di vita. Il reato di stalking è punibile a querela della persona offesa, che ha 6 mesi di tempo per presentarla. Il magistrato può procedere d'ufficio nel caso in cui la vittima sia un minore o una persona disabile. Vi sono due misure di prevenzione, l'ammonimento e il divieto di avvicinamento. Per cui nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, e allo scopo di dissuadere il reo da compiere nuovi atti, viene introdotta la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Se il soggetto già ammonito commette nuovamente il reato di stalking, la pena aumenta. Il giudice può prescrivere all'imputato il divieto di avvicinarsi ai luoghi che la vittima frequenta abitualmente. Può anche impedire che l'imputato si avvicini ai luoghi frequentati da persone vicine o legate alla vittima e impedirgli di comunicare con loro con qualsiasi mezzo. Nel caso in cui venga commesso un omicidio a seguito di una violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne o di violenza sessuale di gruppo e stalking, la pena prevista è l'ergastolo. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizie di reato o di atti persecutori hanno l'obbligo di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio. Inoltre, presso il Dipartimento delle Pari Opportunità dal 2006 è istituito a favore delle vittime di stalking un numero verde nazionale gratuito, attivo 24 ore su 24. È il numero di emergenza antiviolenza e stalking, 1522. Con compiti di assistenza psicologica e giuridica, nonché di comunicazione nei casi di urgenza e su richiesta della vittima, gli atti persecutori alle forze dell'ordine. Cosa si intende però per femminicidio? Nel vocabolario si definisce come qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino a schiavitù o morte. Nel considerare l'aspetto criminologico, invece, la donna è stata individuata in questa nuova normativa come un tipo di vittima, una vittima specifica e unica, proprio per meglio racchiudere il principio e i valori ispirati della tutela legislativa. La donna, in quanto donna, è la vittima specifica di un soggetto di sesso maschile. Per affrontare con forza questo fenomeno, si è intervenuti normativamente su una serie di cosiddetti delitti spia, come i maltrattamenti in famiglia, le minacce, gli atti persecutori o la violenza sessuale. L'articolo 3 del decreto legge 93/2013 è la misura di prevenzione per condotte di violenza domestica. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, consumato o tentato nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, una volta assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o anche tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da una relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Un'importante novità inserita nel testo è segnata all'articolo 4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante, il che dovrebbe tutelare il testimone che si fa avanti e incentivare ad uscire dall'omertà. All'articolo 612 bis del codice penale si parla invece di minacce. Chiunque con condotte reiterate minaccia o molesta, taluno in modo da cagionare un perdurante grave stato di ansia o paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legato da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena prevista è la reclusione, dai 6 mesi ai 5 anni. Se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla parte offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici, la reclusione ovviamente aumenta. La pena aumenta maggiormente se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità. Sulla stessa scia, la nostra Elena Genero Santoro parla di che cosa vuol dire picchiare, che cosa vuol dire abusare di una donna e soprattutto come fanno le donne a raccogliere i cocci più tardi. Quando un uomo picchia una donna, qualunque sia il motivo, frustrazione, effetto di alcol, droghe, fanatismo religioso, maschilismo o qualunque altra cosa messa insieme, fa danni. Rovina una persona, minaccia il suo equilibrio psicofisico e compromette la serenità di un intero nucleo familiare. Leonardo Sciascia, in Il giorno della civetta, divideva gli uomini in uomini, mezzi uomini, ominicchi, ruffiani e qua qua qua. Posto che un uomo, e forse nemmeno un mezzo uomo, potrebbe mai alzare un dito contro una donna, qui parliamo di ominicchi, ruffiani e qua qua qua. Già 20 anni fa, senza pensare a Sciascia, gli individui del genere erano stati soprannominati omiciottoli da Elena. Nella sua testa Elena ha sempre continuato a chiamarli così, e non importa se fisicamente sono alti, belli, palestrati, sono vigliacchi che per far sentire le loro ragioni alzano le mani su chi non può difendersi. Quindi sono e restano omiciottoli. Psicologie immature, personalità disturbate o coscienze embrionali sono denominatori comuni che caratterizzano questi omiciottoli. Hanno come unico movente quello di far valere il loro presunto potere. Poi però rompono il giocattolo e lasciano una montagna di macerie che qualcun altro dovrà smaltire. Quando il danno è fatto, devono mobilitarsi tutti: le forze dell'ordine, gli assistenti sociali, gli psicologi e i volontari di varia natura. Tutti al lavoro per consentire a una donna di ritrovare dignità e fiducia in se stessa. Anche perché si sa, spesso la violenza non finisce con l'allontanamento della donna, ma diventa persecuzione, stalking, come dicevamo prima, e minacce. A quel punto c'è bisogno di un luogo protetto in cui la vittima possa trovare pace, stabilità e protezione, in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Quindi, al di là di ogni altra considerazione, la violenza contro le donne ha anche un consistente costo sociale. E qui bisogna parlare proprio di chi raccoglie i cocci in certe situazioni, di chi dà una mano a ricostruire psicologicamente e materialmente la vita di una donna malmenata, di chi le offre assistenza e magari si attiva per trovarne un lavoro che le garantisca indipendenza economica, che è un altro modo per affrancarsi dal persecutore. Si tratta sempre di associazioni di volontari, talvolta sovvenzionati da un comune o da una regione, ma a volte non sono neanche sovvenzionati da comune e regione. Si tratta quindi a tutti gli effetti di volontari che accolgono persone in difficoltà che scappano da situazioni difficili. Il telefono rosa è una di queste. Nel romanzo L'occasione di una vita, Elena Genero Santoro ha inventato una casa di accoglienza che nasce in parte sulla falsariga di un'associazione di Torino, Gli Amici di Lazzaro, che si occupa anche di donne in fuga da realtà insostenibili. Stanno ultimamente dispiegando forze e risorse contro una particolare forma di violenza, ossia lo sfruttamento della prostituzione, che va al di là della mera violenza domestica, ma coinvolge intere organizzazioni criminali. Gli amici di Lazzaro organizzano attività di strada con cui si incontrano le ragazze nigeriane, spesso vittime di tratta e sfruttamento, e si dà loro la possibilità di fuggire da chi le ricatta o le sfrutta, o magari si offrono percorsi di formazione e accoglienza per chi è vittima della disperazione. La prostituzione non riguarda il sesso, ma il potere. Acquistare prestazioni sessuali significa negare la libertà sessuale dell'altra persona. Bisogna quindi annoverare la prostituzione come una forma di violenza contro la persona. Da una delle testimonianze riportate tempo fa nel loro sito, quello degli amici di Lazzaro, è nato il personaggio di Maria, presente nel romanzo di Elena. Maria non esiste, ma la sua storia è l'interpolazione di alcune storie realmente accadute. Le attività degli amici di Lazzaro non si limitano a questo. Bisogna infatti aiutare concretamente i senzatetto, le famiglie in difficoltà economica, i giovani con campi estivi dopo scuola. Si organizzano poi corsi di italiano e persino incontri di formazione spirituale per favorire l'integrazione degli stranieri. Isolamento e disinformazione sono fenomeni italiani, e non solo, molto gravi. Tipicamente italiano è anche un approccio molto macio che in certi contesti porta all'aggressione. Basta leggere alcuni commenti sui social network per vedere quanti uomini pensano che la donna debba restare in casa, che abbia dei compiti ben precisi e che in fondo debba rimanere subalterna al maschio. Non tutti questi commentatori dei social picchieranno le loro mogli, è vero, ma anche in questo caso il terreno fertile per la violenza di genere è sempre l'idea di sottofondo che il maschio debba prevalere. Quando a questo pregiudizio si sommano altri tipi di problemi, come una personalità disturbata o una dipendenza da gioco e da sostanze, inizia la spirale della violenza. In Italia le associazioni contro la violenza sulle donne proliferano, basta dare un'occhiata in internet e trovare interi elenchi regione per regione. Non sapremmo dire però se questo è un bene o un male. È un bene che le associazioni ci siano, un male che ce ne sia così tanto bisogno. Tra le tante c'è il Telefono Rosa Piemonte, che rivolge molti dei suoi sforzi per la formazione, oltre a mettere a disposizione una struttura di accoglienza. Perché oltre a raccogliere i cocci di quello che è stato, bisogna costruire e fortificare. La consapevolezza nelle donne, in quelle giovani, è da costruire, mentre è da fortificare in quelle che magari sono fuggite da situazioni difficili, che hanno la propria autostima fatta a pezzi. Se un amore si manifesta con qualcosa che non fa stare bene, non è amore. La nostra Elena ha concluso il suo editoriale con un PS che vorrei leggervi. Dopo aver concluso questo articolo, ho preparato una torta e ritirato il bucato con l'aiuto di mio figlio, maschio, di 4 anni, che nel suo piccolo si dà molto da fare, ha imburrato la teglia, mi ha passato gli ingredienti, ha piegato gli asciugamani asciutti. Per lui si è trattato di un bel gioco, si è divertito moltissimo. L'augurio è che questa sia prevenzione, che nelle nuove generazioni non inizi nemmeno il pregiudizio di mestieri da donna e da uomo, della mamma che sta a casa e del papà che può permettersi delle libertà in più. Siamo tutti individui meritevoli di rispetto, senza prevaricazione, né lotte di potere. Su questa nota molto positiva, vi annuncio che vorrei leggervi l'estratto di un romanzo. Oggi leggiamo Non tutto è come sembra, di Ornella Nalon. È un giallo. Stefano, hai controllato la targa? Si tratta di Visconti? Sì, dottore, la targa è quella segnalata. Già, come immaginavo. Diavolo, che morte del cazzo. Hai notato qualche segno di frenata sull'asfalto? No, dottore, nessun segno di frenata. E smettila, questo dottore, sto povero Cristo. Come ero fatto a uscire di strada e a finire nel fiume in un rettilineo del genere? Forse ha avuto un malore, o forse è stato abbagliato dai fanali di qualche auto, o magari stava correndo forte. Può essere tutto. Come facciamo a saperlo dal momento che non ci sono segni sull'asfalto e non ci sono neppure testimoni oculari? Chi glielo dice adesso a quella sventola di sua moglie che suo marito è morto affogato? Maresciallo, credo che sua moglie sia quella che sta gridando e cerca di farsi largo tra i curiosi. Il maresciallo Giovanni Colucci attese che la gru appoggiasse sull'asfalto l'Audi grondante d'acqua e di fango, da cui pendevano inoltre alcuni filamenti di qualche pianta acquatica. Guardò attraverso il finestrino aperto dal lato di guida e vide per prima cosa il volto del cadavere, che se non fosse stato per il pallore della pelle e il colore grigiastro delle labbra o per i capelli fradici, poteva addirittura sembrare quello bello e rilassato di una persona che stava tranquillamente dormendo. Il corpo era in perfetta posizione seduta, tenuto ben saldo sul sedile dalle cinture di sicurezza. Soltanto spostandogli il corpo in avanti, Giovanni poté notare un rivolo di sangue ormai raggrumato che gli scendeva dalla base della nuca lungo tutto il collo, sino ad andare a formare una vistosa chiazza che aveva impregnato la camicia. Scostò i capelli e gli apparve una ferita trasversale, non molto lunga, però sembrava profonda. Aprì la portiera e cominciò a frugare nelle tasche della giacca dell'uomo, fino a che trovò il suo portafogli, da cui estrasse la patente di guida. Giancarlo Visconti. Guardò tra la folla i curiosi che si accalcavano, nonostante i nastri segnaletici posizionati dai suoi colleghi, e focalizzò la sua attenzione sulla donna, che a fatica Cosimo cercava di trattenere per evitare che oltrepassasse la fragile barriera. Giovanni strofinò la mano destra sul fianco della divisa, nel tentativo di asciugarla, e poi se la passò tra i capelli. Era un gesto del tutto inutile, perché non aveva alcun ciuffo da tenere a bada. Però gli veniva d'istinto quando si sentiva leggermente infastidito da qualcosa. Era come se da esso riuscisse a trarre quel minimo di coraggio in più che gli serviva per affrontare ogni piccola sfida. Si avvicinò alla donna che sembrava in preda a una crisi isterica e le si rivolse con il tono più gentile che riuscisse a ottenere. «Lei è la signora Visconti?» «Sì, sono io. Qua non mi vuole dire niente a nessuno. La prego, ha riconosciuto la nostra auto e so che quello è mio marito. Mi lasci andare da lui, io voglio vederlo!» Sì, signora, io temo che lei abbia ragione. Dai documenti in possesso risulta che si tratta di suo marito, ma è sicura di volerlo vedere? La donna ebbe un visibile sbiancamento in viso, però smise di agitarsi e di gridare. Si ricompose e rispose: Sì, devo vederlo. Il maresciallo fece un cenno con la testa a Cosimo, quindi egli alzò il nastro segnaletico bianco e rosso e permise alla donna di passarci sotto. Giovanni la prese delicatamente al braccio e iniziò ad accompagnarla verso l'auto. Lei, completamente in silenzio, procedeva con passo un po' incerto che denota tutta l'agitazione e il timore che doveva provare nell'affrontare quella terribile situazione. Quando furono in prossimità dell'Audi, la donna si divincolò dalla leggera stretta del suo accompagnatore. Si lanciò con foga verso la portiera e cercò di afferrare la maniglia per poterla aprire. Gridava il nome del consorte a gran voce. Il maresciallo la fermò. Signora, la prego, non tocchi nulla. Può confermare che quello è suo marito? Sì, è proprio lui, ma come può essere successo? Rispose lei che urlava e singhiozzava rumorosamente. È una cosa che dobbiamo ancora accertare, però ora la devo far riaccompagnare a casa. No, voglio stare con lui! Signora, non c'è niente che lei possa fare qui. Ci lasci compiere il nostro lavoro. Mi creda, è molto meglio se torna a casa dai suoi figli. Ne ha due, no? Sì, un maschio e una femmina, ma sono piccoli. Oh, come farò a dire loro che non hanno più il padre? Signora deve farsi coraggio e cercare di trovare in loro la forza per andare avanti. Toccò il tasto giusto, perché la signora Visconti sembrò arrendersi e docilmente si lasciò accompagnare dall'auto che avrebbe dovuto portarla a casa. Cazzo, questa è la parte che odio di più del mio lavoro. Che cosa vuoi dire a una donna che ha appena visto il marito conciato in quella maniera? Che stupide frasi di circostanza. L'appuntato Stefano Righi lo guardava. Eh sì, non è facile, rispose poi. Era distratto, annotava sul suo taccuino qualche appunto che gli sarebbe servito per la sua relazione di servizio. Maresciallo, dobbiamo aspettare l'arrivo qui del magistrato? Chiese il brigadiere Cosimo. No, è impegnato, non può essere presente, però gli ho dato l'autorizzazione a rimuovere la salma. Più tardi, nel suo ufficio della piccola caserma, Giovanni non riusciva a concentrarsi sulle pratiche che doveva sbrigare. Non si toglieva dalla mente il pensiero dell'incidente di cui aveva disposto i rilievi poco prima. Non era tanto per la crudezza delle immagini a cui aveva dovuto assistere, ma c'era qualcosa che gli appariva strano. Nella sua attività aveva avuto modo di vedere alcune scene ben più raccapriccianti, però questa. Nella testa aveva iniziato a ronzargli quel campanello. Ogni volta lo sentiva perché si metteva in funzione il suo istinto. Con un colpo secco chiuse la cartella che conteneva il caso dei furti di biciclette. Avrebbe dovuto trattare con priorità il caso Visconti. Si mise a cercare le informazioni. Visconti Giancarlo, nato ad Olo il 29 aprile 1972, padre Visconti Carlo, madre Nelesso Stefania, laureato nell'anno 2001 in psicologia, iscritto all'albo dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, titolare di uno studio di psicologia, sposato il 21 maggio 2005 con Veronica Fecchio. D'improvviso si interruppe la lettura. Psicologo? Ecco il motivo per cui il campanello si era messo in funzione. Chiamò a gran voce l'appuntato Righi che apparve sulla porta quasi istantaneamente. Eccomi, dottore. Oh, Stefano, quant'è che lavoriamo assieme? Sarà un anno il 20 di settembre, dottore. Ecco, in quest'anno di tempo, quante volte te l'ho detto di chiamarmi Giovanni, Colucci, Maresciallo, quando siamo tra noi e non in veste ufficiale? Quante volte ti ho detto che quando mi chiami dottore mi fai sentire uno sfigato e sono preso per il culo? Parecchie volte, dottore. Parecchie volte. Mi scusi, ma non mi viene spontaneo. Comunque ci proverò, maresciallo. Bene. Sapevi che Visconti era uno psicologo? Sì, lo sapevo, lo conoscevo di persona anche. Abitava poco lontano da me. E ti ricordi che c'è stata la morte di un altro psicologo, quello di Oriago, 5-6 mesi fa? Sì, ricordo perfettamente. Era il dottor Santini, era morto. Era giovane, è morto di un brutto male, una malattia fulminante, mi sembra. L'ha rubato nel giro di qualche mese. Bravo, e in quel momento gli suonò il cellulare e vide apparire sullo schermo il nome di Claudia. Porca troia, ancora mi rompe le palle questa. Tiè, Stefano, rispondi tu, dille che ha sbagliato numero. Maresciallo, ma così la richiamo subito. Rassegnato ma evidentemente seccato, Giovanni rispose al telefono. Ciao Claudia! E poi silenzio. Dalla posizione in cui si trovava, Stefano non poteva sentire distintamente ciò che la donna diceva, ma capiva che il suo tono era alquanto alterato. E captava un paio di parole che tutto sembravano fuorché dei complimenti. Senti, amore, non t'ho più chiamata perché sono stato impegnatissimo con il lavoro. Appena sono un po' più libero mi faccio sentire, promesso. Ancora silenzio da parte di Giovanni. E ancora il vocio convulso dall'altra parte della linea. Ok, ti sei sfogata. Senti meglio? Ti devo salutare. Ciao. Chiuse la conversazione di botto. Gettò il cellulare al lato della scrivania. E poi guardò l'appuntato. Ma cosa ci fa alle donne, maresciallo? Ma cosa fanno loro a me piuttosto? Le porti a cena due volte e pensano di metterti la fede al dito. Comunque, torniamo a noi. Stavo dicendo, ti ricordi del suicidio di un'altra psicologa? Nell'estate dell'anno scorso, si chiamava Lunardi. Sì, maresciallo, me la ricordo bene. Ero arrivato da poco, l'abbiamo trovata impiccata alla travatura del suo magazzino. Io ricordo di aver pensato che se cominciava in quel modo, chissà cosa avrei dovuto assistere. Sì, ma a te non sembra strano che in poco più di un anno tre psicologi dello stesso comune siano morti? Ma poi non ti sembra strano che Giancarlo sia uscito di strada così, in una strada dritta, senza che ci sia il minimo segno di frenata? Beh, maresciallo, è piuttosto strano, ma sono state tre morti completamente diverse l'una dall'altra. Io non penserei a niente che non sia una pura coincidenza. Ma poi il Visconti può essere stato colto da un malore improvviso. Sai una cosa, io non ci credo alle coincidenze, però credo al mio fiuto. Non per niente in famiglia, fin da piccolo, mi chiamavano Segugio. E allora che pensa di fare? Non lo so. Per ora torna al tuo lavoro. Ah, Stefano, Stefano, aspetta. La fai tu la relazione di servizio? Domattina sei di pattuglia. Certo, maresciallo. Rimasto da solo, Giovanni riprese in mano la pratica che aveva lasciato in disparte poco prima. E decise che avrebbe disposto maggiori controlli davanti al supermercato. Aveva una mezza idea su chi potesse essere il responsabile dei furti di biciclette. Bastava che mettesse qualcuno a controllare i suoi movimenti. Di sicuro lo avrebbero beccato sul fatto.